Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. La rubrica So Info, che vi accompagna con informazioni e consigli pratici sui temi della salute attraverso uno sguardo plurale, il punto di vista della donna, delle bambine e dei bambini, dopo aver approfondito il tema della maternità, cambia scenario, occupandosi per le prossime 4 settimane della medicina d'urgenza. Quanti volti e quante declinazioni ha il pronto soccorso? Scopriremo che si tratta di un servizio fortemente personalizzato e iniziamo subito a conoscere il pronto soccorso a misura di bambino e di bambina. Il dottor Paolo Grotto, primario facente funzioni della pediatria dell'ospedale di Treviso. Il pronto soccorso è un servizio rivolto all'urgenza e emergenza del cittadino e anche del cittadino bambino, che afferisce attraverso una porta principale che è il pronto soccorso centrale, e una volta che il bambino viene accolto da un sistema di triage, il triage è una selezione dei motivi dell'urgenza emergenza, viene poi indirizzato verso il percorso a lui più appropriato. È chiaro che se c'è un bambino che ha un problema di emergenza, cioè pericolo di vita, il bambino si ferma giù nel pronto soccorso centrale, viene chiamato il pediatra, viene chiamato il rianimatore e si stabilisce lì il primo intervento di trattamento. Per il bambino invece che ha problematiche non di pericolo di vita, voglio dire sempre urgenti oppure di urgenza differita, c'è un percorso dedicato per cui dal pronto soccorso centrale il bambino sale all'area urgenza della pediatria, dove c'è un ambulatorio attrezzato per l'urgenza pediatrica con un medico dedicato, un pediatra, un'infermiera dedicata e la presenza di un operatore sociosanitario, soprattutto durante la notte e durante il fine settimana, perché soprattutto per aiutare l'infermiere a tenere il bambino, a portare campioni, insomma tutte attività diciamo ancillari per il trattamento dell'urgenza, ecco c'è anche questa figura. Una volta che arriva nell'area urgenza di pediatria, il bambino viene rivalutato, cioè viene ritriagiato per valutare se si sono modificati i motivi o criteri di urgenza visti giù nel pronto soccorso centrale e definire una priorità di accoglienza. È chiaro che se c'è un bambino che ha un peggioramento o emergono delle patologie o dei sintomi peggiorativi, vi è una priorità nell'accoglienza di questo bambino. Poi il bambino viene passato nell'area di valutazione medica, c'è il pediatra che lo valuta, poi lì vengono decisi se accertamenti, terapie, eccetera, e poi questo si può concludere con la dimissione, si può concludere con il ricovero se la patologia merita un trattamento in regime di ricovero, oppure l'altra possibilità è che soprattutto nelle condizioni diciamo di dubbie in cui non emerge chiara una patologia, oppure nelle situazioni in cui una breve terapia intensiva, una breve terapia d'urgenza può permettere una dimissione, allora il bambino viene tenuto in osservazione breve intensiva. E questo è un'area dedicata con 5 posti letto in cui il bambino viene ricoverato in un letto, viene tenuto sotto osservazione, monitoraggio dei parametri vitali, dello stato clinico, accertamenti, terapie e l'osservazione breve intensiva che è stata introdotta credo nel 2005 dalla Regione Veneto, permette di risparmiare ricoveri per bambini che dopo qualche ora possono essere rinviati a domicilio in sicurezza. Solo per avere dei numeri per la pediatria di Treviso, relativamente al 2015, ma sono numeri che sono similari anche negli anni precedenti, gli accessi in pronto soccorso sono stati 10.555, le osservazioni brevi intensive sono state in tutto 1.394, che corrispondono grosso modo al 14%, insomma, ecco, degli accessi, di quelli che, tutti quelli che accedono, il 14% viene trattenuto in osservazioni brevi intensive. Su Info, Salute e Società, punto radio a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.